24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Bellegatta a questo appuntamento con 24 ore in Europa. Johannes Hahn, commissario europeo per la politica regionale, ha annunciato la proposta della Commissione di stanziare 670 milioni di euro per l'Italia a seguito dei due gravi terremoti consecutivi delle centinaia di scossi di assestamento che si sono verificati in Emilia-Romagna a maggio del 2012 e avvertiti anche nelle regioni confinanti Veneto e Lombardia. L'obiettivo del sostegno, la somma più elevata mai stanziata dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, è coprire gli enormi costi di ripristino delle infrastrutture essenziali e di fornitura di alloggi e di servizi di soccorso, nonché proteggere il patrimonio culturale della regione. L'Italia ha presentato una domanda di aiuto a titolo del Fondo di Solidarietà, ricevuta il 27 luglio 2012, entro il termine di 10 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno, 20 maggio 2012. Le autorità italiane hanno indicato danni diretti per 13,3 miliardi di euro, 3 miliardi di euro in più rispetto ai danni record provocati dal terremoto dell'Aquila in Abruzzo nel 2009. Questo importo rappresenta lo 0,86% del reddito nazionale lordo italiano e supera di quasi 4 volte le condizioni per la mobilitazione del Fondo di Solidarietà, fissate a 3,6 miliardi di euro per l'Italia nel 2012. Non ci sono differenze tra il punto di vista del presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker e il commissario europeo agli affari economici Olli Rehn sul tipo di condizionalità da imporre alla Spagna qualora richiedesse l'attivazione dello scudo antispread. Lo ha affermato il portavoce di Rehn, Simon O'Connor, rispondendo così a chi gli chiedeva se le dichiarazioni di Juncker, che ieri ha parlato di condizioni durissime, non fossero di segno opposto a quelle del commissario. È essenziale che le autorità politiche si impegnino a seguire regole chiare per la vigilanza che devono essere applicate a tutte le banche europee. È il monito rivolto dal presidente dell'EBA, l'autorità bancaria europea, Andrea Enria, durante un'audizione all'Europarlamento. Altrimenti il rischio, ha avvertito, dell'unione bancaria e del meccanismo di supervisione dell'Unione Europea è quello di polarizzare il mercato unico dando vita a due unioni bancarie, una che applica le norme UE e un'altra che non le applica. I ministri degli esteri dei paesi fondatori dell'Europa, assieme a Spagna, Portogallo, Austria, Polonia e Danimarca, hanno siglato lunedì a Varsavia un documento comune in cui si afferma il principio di mutualizzazione dei rischi sovrani, per la prima volta accettato anche dalla Germania. Si tratta di un punto essenziale, parte della strategia dell'Italia per l'Europa, ha commentato il ministro degli esteri Giulio Terzi in un'intervista pubblicata dal quotidiano La Stampa. Si attenua il deficit del commercio con l'estero dell'Europa con la Cina, prevalentemente grazie ad un aumento delle esportazioni verso il Dragone, laddove l'import di beni cinesi è rimasto sostanzialmente stabile. E il valore dell'import di beni della Cina resta grosso modo il doppio di quello che l'Unione Europea riesce ad esportare nel mercato del gigante asiatico. Per l'insieme dei paesi dell'Unione Europea 27, i primi 6 mesi del 2012 si sono chiusi con un disavanzo da 67,44 miliardi di euro nei confronti della Cina. Un corpo europeo di volontari per le iniziative umanitarie. Sentiamo i dettagli nell'intervista di Luisa Perona a Matteo Sirtori della Direzione Generale per gli Aiuti Umanitari e la Protezione Civile della Commissione Europea. La creazione di questo corpo volontario europeo di aiuto umanitario è prevista nel Trattato di Lisbona, Trattato sull'Unione Europea, e risponde a due necessità principali. La prima è quella di contribuire alla risposta che l'Unione Europea offre alle catastrofi umanitarie attraverso il finanziamento di selezione, formazione e dispiegamento di volontari in progetti umanitari. Questo cosa significa? Si tratta quindi sostanzialmente di mettere a disposizione delle risorse aggiuntive. La seconda necessità è quella di dare una possibilità a coloro che sono interessati all'aiuto umanitario di acquisire nuove conoscenze. Concretamente come funziona? A partire dal 2014 questo programma finanzierà la formazione di volontari europei, degli stage e il dispiegamento dei volontari sul terreno. Parlando di risorse economiche, a quanto ammontano i vostri fondi e come pensate di utilizzarli? Il programma ha a disposizione 239 milioni di euro su 7 anni, dal 2014 al 2020. Il grosso dei finanziamenti è previsto per il dispiegamento dei volontari sul terreno. Secondo un sondaggio dell'Eurobarometer, l'88% degli intervistati si sarebbe dichiarato entusiasta relativamente a questa iniziativa. Un commento? Per noi è stata una delle indicazioni chiare che non solo c'è un supporto europeo su sulle attività di aiuto umanitario in generale, ma anche rispetto in particolare alla costituzione di questo corpo di volontari. Questo dà dimostrazione anche che i cittadini dei Paesi membri iniziano ad essere partecipi della vita, delle attività dell'Unione. Questo è uno dei grandi obiettivi anche di questo, la formazione di questo corpo, di avvicinare ancora di più i cittadini. Biciclette per tutti, ecoveicoli, car sharing, zone pedonali, mezzi pubblici gratuiti, questi gli ingredienti chiave della nuova edizione della Settimana Europea della Mobilità in corso fino al 22 settembre. Muoversi nella direzione giusta, lo slogan della campagna europea di quest'anno per una mobilità amica della salute e dell'ambiente. Ma qual è questa direzione giusta? Alessandra Scapisi lo ha chiesto al commissario europeo per l'ambiente, Janez Potocnik. The right direction is certainly the direction which, La direzione giusta è sicuramente quella in cui la mobilità viene sostenuta attraverso azioni di riduzione di consumi di carburante, di emissioni di gas serra, di congestione delle città, azioni che promuovano la qualità della vita e una migliore salute per i cittadini. Penso che sia qualcosa sulla quale tutti possono trovarsi d'accordo. La velocità di spostamento in alcune città è tornata ai livelli addirittura del 1700, quando si viaggiava con le carrozze e i cavalli, 15 km orari. In particolare, cosa dovrebbero fare le nostre amministrazioni per migliorare la mobilità? Bisogna investire di più nei mezzi alternativi di trasporto, che vuol dire migliori infrastrutture per chi va in bici o a piedi e più mezzi di trasporto pubblici. Secondo una recente stima dell'Unione Europea, se tutti i suoi cittadini andassero in bici quanto i danesi, l'Europa taglierebbe di oltre un quarto le sue emissioni di anidride carbonica. E poi car sharing, più aree pedonali nei centri storici, incoraggiare le persone a usare forme di energia pulita o altri tipi di veicoli come quelli elettrici. Ma bisogna anche pensare a come ridurre il bisogno di viaggiare, per esempio con migliori piani urbani e con il telelavoro. Ci sono molti strumenti attraverso i quali ogni governo può intervenire a livello nazionale. Sentiamo ora come sono andati i listini del vecchio continente. La decisione della banca centrale giapponese di lanciare nuove misure di stimolo all'economia non ha scaldato i listini europei, che hanno terminato sopra la parità una seduta piuttosto nervosa. Milano ha chiuso più 0,15%, ancora penalizzata dalle banche colpite dai rialzi dopo la revoca del divieto alle vendite allo scoperto decisa venerdì scorso dalla Consob. Le peggiori sono state MPS, meno 3,5%, e UBI, meno 2,2%, inserite nella lista dei titoli meno favoriti di Morgan Stanley. Ancora in calo Mediaset, meno 3%, che ha abbandonato la gara per la 7 Asset di Telecom Italia Media, meno 10% in borsa dopo i recenti acquisti. Per contro, Luxottica è balzata del 2,6% grazie ai giudizi positivi degli analisti sul mercato dell'occhialeria. Bene anche Fiat, più 2,6%, che ha recuperato terreno dopo le recenti perdite in attesa sabato dell'incontro tra l'amministratore delegato Sergio Marchionne e il premier Mario Monti sulle strategie del gruppo. Nel resto del listino, altro balzo per RCS, più 14,4%, dopo che l'azionista Diego Della Valle ha comunicato di aver incrementato la quota dal 5 al 9% circa. Livia Zancaner da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore. Crisi che morde e l'Italia ha il record europeo per il prezzo della benzina. La differenza è dovuta esclusivamente al fisco, rileva il Centro Studi Promotor. Prezzi alti anche per il gasolio. Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor. Il prezzo italiano rispetto alla media europea è superiore di 27,4 centesimi, ma questi 27,4 centesimi in più dipendono da un maggior carico fiscale di 23,5 centesimi rispetto alla media e da un maggiore costo industriale di 3,9 centesimi. Per il gasolio la situazione è ancora peggiore, perché il prezzo supera la media europea di 30,2 centesimi dovuti per 34,9 centesimi a una maggior componente fiscale e recuperati in parte con un miglior prezzo industriale di 4,7 centesimi. Quindi la colpa del caro carburanti, della grande differenza fra i prezzi di benzina e gasolio in Italia e nel resto d'Europa è oggi solo ed esclusivamente del fisco. È tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Valeria Bernardi in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.